Savonarola, il frate che sbrindellò Firenze. Prose scelte, un programma in collaborazione con Davide e Giorgio e Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari in fiorentino aristocratico e lette oggi in fiorentino popolano da me che sono un plebeo. Ubi maior minor cessat. Serio. Capitolo 4. Magnificat. Quando il Savonarola venne a Firenze dominava già da più anni Lorenzo il Magnifico ed era nell'auge del suo nome e della sua potenza. Sotto il suo governo ogni cosa aveva preso apparenza prospera e felice, cessati da lungo tempo quei partiti che d'ora in ora avevano sollevato la città, imprigionati, esiliati o spenti, coloro che non s'erano voluti piegare alla dominazione medicea, la calma e la tranquillità erano per tutto. Le feste, le danze, le giostre tenevano occupato continuamente quel popolo fiorentino che una volta così geloso dei suoi diritti sembrava che ora avesse dimenticato il nome stesso della libertà. Lorenzo era sempre mescolato in questi sollazzi, ne ricercava, ne inventava ogni giorno dei nuovi, ma fra tutte le sue invenzioni la più celebre fu quella dei canti carnascialeschi, da lui per la prima volta composti e destinati a cantarsi nelle mascherate del carnevale, quando la nobile gioventù, travestita a rappresentare ora il trionfo della morte, ora una schiera di diavoli, ora un'altra simile bizzarria, percorreva schiamazzando la città. La lettura di questi canti ci può dipingere la corruzione di quei tempi assai meglio d'ogni altra descrizione. Oggi non la nobile gioventù, ma l'ultima plebe li avrebbe a sdegno e l'andarli cantando per la città sarebbe considerato un'offesa al pubblico decoro, né resterebbe impunito. Allora essi erano la prediletta occupazione di un principe lodato per tutto il mondo e tenuto come il modello d'ogni sovrano, un prodigio d'accortezza, un genio politico e letterario. E quale i più lo dicevano allora, tale molti vorrebbero giudicarlo oggi. Gli si perdona il sangue sparso per mantenere un dominio ingiustamente acquistato da lui e dai suoi. Il disordine che mise nella Repubblica, il rubare che fece gli averi del comune per sopperire alle sue strabocchevoli spese, la invereconda libidine a cui, malgrado una salute cagionevole e malferma, abbandonavasi perdutamente, ed anche quella rapida ed infernale corruzione del popolo alla quale studiò di continuo con tutte le forze e le capacità del suo animo. E tutto ciò gli si perdona per essere stato protettore delle lettere e delle arti belle. Nella condizione sociale di Firenze a quel tempo eravi in vero un contrasto assai singolare. La cultura si era universalmente diffusa, tutti conoscevano il latino ed il greco, tutti ammiravano i classici, moltissime donne erano note per l'eleganza dei loro versi greci e latini. La pittura e le arti belle, dopo i tempi 18 decadute, avevano ripreso una nuova vita e per tutto si vedevano sorgere palazzi, chiese, edifici pieni d'eleganza, ma artisti, letterati, politici, signori e plebe erano tutti d'animo corrotto, privi di ogni virtù pubblica o privata, di ogni sentimento morale. La religione o era strumento di governo o bassa ipocrisia. Non avevano fede né civile, né religiosa, né morale, né filosofica. Neppure il dubbio pigliava forza nei loro animi. Dominava una fredda indifferenza per ogni principio e nei loro volti, pieni d'accortezza, pieni d'acume e di sottile intelligenza, appariva un freddo sorriso di superiorità o di compassione ogni volta che vedevano sorgere qualche entusiasmo per le idee nobili e generose. Non le combattevano, né le mettevano in dubbio, come avrebbe fatto un filosofo scettico, ma le compativano. E questa loro forza d'inerzia opponeva alla virtù un ostacolo assai maggiore che non avrebbe fatto una guerra dichiarata ed aperta. Un tale stato morale doveva di necessità agire potentemente sulla cultura intellettuale. La filosofia infatti era si ridotta ad erudizione, era caduta quella scolastica contro cui si è tanto declamato, ma che pure ebbe una gioventù, una vita, un ardore che invano cerchiamo negli scritti del secolo XV. Le lettere o erano filologia o imitazione di Virgilio, d'Omero, di Pindaro e via discorrendo. Sin dalla morte del Boccaccio Franco Sacchetti piangeva nei suoi versi, pieni di semplicità e di candore, la decadenza delle lettere, e ciò che maggiormente lo affliggeva non era, egli dice, la perdita di quei sommi ingegni, ma il non esservi speranza che alcuno sorgesse simile a loro, il non trovarsi più chi sapesse almeno comprenderli. E se egli fosse vissuto ai tempi di cui ora parliamo, avrebbe avuto ben più alta cagione di pianto, avrebbe udito coloro che dichiaravano la lingua italiana incapace di esprimere gli alti concetti, avrebbe udito coloro che giudicavano la Divina Commedia inferiore alle ballate e ai canti carnascialeschi di Lorenzo dei Medici. Le arti belle, che sono ultime a risentirsi delle sventure morali e politiche di un popolo, perdettero anch'esse quegli arditi ed universali concetti coi quali Giotto, l'Orgagna e tanti altri avevano ornato i monumenti d'Italia. E certo né il Duomo né il Palazzo Vecchio avrebbero in quel secolo potuto trovare un altro Arnolfo che sapesse infondere nelle loro mura tanto spirito di libertà e di indipendenza. Ma fra questi danni aveva pure la caduta di libertà recato un solo vantaggio alle lettere e alle arti. Chiuse le vie ad ogni attività politica, ad ogni civile ambizione, ad ogni virtù pubblica, decaduto quel commercio e quelle industrie con cui s'erano raccolte fortune così straordinarie, le forze che restavano ancora vive si rivolsero tutte allo studio delle arti e delle lettere. E così, sebbene non si trovassero più di quegli altissimi ingegni fioriti nel tempo della Repubblica, si aveva almeno un moto universale di studi, una moltitudine avida di imparare nuove lingue, di produrre nuovi libri e nuovi quadri, e tanto più ingordamente avida in quanto che non sapeva degli studi farsi scala a fini più alti. La città aveva infatti l'apparenza di una grande scuola. La passione che dominava ognuno era quella di raccogliere codici e statue antiche. Tutte le discussioni erano grammaticali, filologiche o erudite. I greci, che per la caduta di Costantinopoli riparavano in Occidente, venivano in Firenze accolti con entusiasmo, ed essi, con le loro lezioni, con la loro dottrina, accendevano sempre più la passione verso gli antichi, il desiderio di conoscere la Grecia, di ricercare i suoi conventi, i suoi tempi, di scavare il terreno per trovarvi gli antichi frammenti. E si facevano delle spedizioni in Oriente, donde, dopo aver corso non pochi disagi e pericoli, dopo aver spesso consumato patrimoni non piccoli, si tornava carichi di tesori più o meno preziosi. Sono note nella storia le ricerche fortunate che Poggio Bracciolini fece in quasi tutte le città d'Europa, i viaggi in Oriente di Guarino Veronese, a cui un naufragio rapì in poche ore il frutto di tante fatiche e fece pel dolore incanutire i capelli, quelli di Giovanni Aurispa, il quale tornò a Venezia con 238 manoscritti, avendo però consumato ogni suo avere, onde nell'estrema vecchiezza si trovò ricco di gloria, ma poverissimo d'ogni bene di fortuna, quelli di Francesco Filelfo e di tanti altri che si partivano allora per visitare le classiche terre della Grecia. Ogni volta che uno di costoro ritornava in Italia, ma specialmente in Firenze, il suo arrivo era una pubblica festa, un trionfo. Gli andavano incontro i primi del paese, il principe lo accoglieva con grandi onori, le sue scoperte venivano celebrate in iscritto e le lettere dei privati amici non parlavano d'altro. Cominciavano poi le discussioni sull'autenticità e l'interpretazione dei codici, si accendevano le questioni filologico-grammaticali e le ire non avevano allora più limiti. Si laceravano quei dotti nella fama, nell'onore, con tutti i modi più violenti. E questa poteva dirsi l'unica libertà lasciata ai fiorentini. Le belle arti furono più fortunate, gli artisti si abbandonavano alla vita gaia del tempo, godevano, sollazzavano e lavoravano con la stessa spensieratezza. Il costume divenuto universale di proteggere le arti faceva sì che per tutta Italia i ricchi, i signori, le chiese ed i conventi volevano le loro opere ed essi erano invitati e bene accolti dovunque, onde, beati di questa vita, lavoravano e godevano. Perderono molto nell'altezza ed universalità dei concetti, guadagnarono però infinitamente nella imitazione del vero, nel disegno e nel meccanismo dei colori. Si trovò allora la pittura ad olio, che segnò un nuovo periodo nella storia dell'arte. La scultura e l'architettura, in cui la materia piglia una parte maggiore assai che nella pittura, fecero anche dei grandi progressi, sia con l'aiuto delle statue o monumenti greci o romani, sia per le mille difficoltà che la pratica insegnò a superare, talché i nomi del Donatello, di Ghiberti, del Brunellesco restarono immortali. L'arte raggiunse certamente in quel tempo una finezza che nel passato non aveva avuta e nel secolo di poi perdette. Ma i fatti da noi qui sopra descritti ebbero la più parte luogo prima che la dominazione dei Medici si fosse stabilita e furono affatto indipendenti dai loro aiuti. L'amore per gli studi classici si era diffuso fin dai tempi del Boccaccio ed era andato di poi sempre crescendo nei viaggi e nelle ricerche sopraccennate. Privati cittadini avevano consumato private fortune senza speranza di aver compenso d'altro che di gloria. Quanto agli artisti, essi erano quasi tutti fioriti nel principio del secolo, come Brunellesco, 1337-1446, Ghiberti 1381-1455, Donatello 1386-1468, Masaccio 1402-1443, e le loro più grandi opere furono fatte senza protezione né consiglio dei medici. La cupola del Brunellesco venne ordinata per consiglio dei cittadini liberamente adunati nel Duomo l'anno 1407. Le porte del Ghiberti furono cominciate l'anno 1400 e la enorme somma di 30.798 fiorini fu pagata tutta dall'arte dei doratori. La cappella del Carmine, in cui lavorò Masaccio ed altri celebri artisti, fu fatta a spese di privati cittadini, e le pitture del Beato Angelico furono dipinte per amore dell'arte e per sentimento religioso, assai spesso senza volerne accettar compenso di sorta. I medici, adunque, non crearono uno stato di cose che non era in forza umana il creare, ma questo fu la conseguenza inevitabile delle vicissitudini per tanti secoli corse dalla Repubblica, del generale rovescio di ogni libertà che allora aveva luogo in tutta Italia. Essi lo trovarono già apparecchiato, ebbero però la rara accortezza di saperne profittare e, secondandolo, volgerlo al loro profitto. E se mai vi fu uomo che potesse dirsi nato a ciò, questi fu certamente Lorenzo il Magnifico.